io ho apprezzato le cose che ha detto ieri il presidente Mattarella in occasione del 25esimo dell'assassinio di quel grande uomo Borsellino, e ha detto che sono state troppe le reticenze, troppi ritardi, troppe le manchevolezze. Bene, io credo che la stessa cosa può essere detta per quanto riguarda l'omicidio di Carlo. Hanno imbrogliato i periti, il pubblico ministero che se ne è occupato è stato contento dell'imbroglio, parlo dello sparo per aria che non esiste proprio, il colpo diretto. Carlo non era affatto all'assalto della camionetta, ha raccolto l'estintore per cercare di difendere se stesso e gli altri da un colpo di pistola che stava partendo. E allora tutte queste cose non riguardano soltanto morti celebri, riguardano anche morti meno celebri ma ugualmente importanti per la società, perché se non viene fatta verità su ogni cosa che succede è il paese che va progressivamente sempre più indietro, e questo dovremmo cercare di impedirlo. Per questo siamo qui ancora una volta a cercare di pretendere verità. Qual è lo stato di salute della nostra democrazia? È una democrazia appunto che se non riesce a superare la voglia di nascondere la verità, è una democrazia che si fa sempre più male. Ho sentito anche le parole del capo della polizia, Gabrielli, che ho apprezzato, e però insomma anche questi che rientrano non sono proprio un bellissimo esempio. Il fatto che De Gennaro, che giustamente ha detto Gabrielli avrebbe dovuto dimettersi, di promozione in promozione sia persino diventato presidente della più grande industria pubblica italiana, Finmeccanica, sono cose che appunto non fanno bene alla dignità di questo paese. È un paese che perde dignità, perde alla fine, perde persino anche la libertà. Ci sono due notizie da Genova quest'anno, la novità. Uno è il cambio del sindaco, per la prima volta la sinistra ha perso Genova. Tra l'altro anche nell'anno del ricordo della rivolta dei Camalli, no, contro il governo Tambroni. E la seconda notizia, che insomma interessa molto anche chi non è di Genova, è di Forza Nuova, che voleva aprire una sede qui. Ci racconti un po' com'è Genova adesso che c'è stato il cambio, qual è il vostro rapporto, il rapporto del Comitato Piazza Giuliani col nuovo sindaco, e che cosa si può dire su questa cosa di Forza Nuova qui a Genova? Ma di questa cosa non si sa ancora bene, Casa Pound più che Forza Nuova pare, però non si capisce ancora bene se è stata una provocazione o se è davvero una cosa che vogliono fare. Non saprei proprio come prenderla, se non male. Nessun rapporto con la giunta, non ne avevamo neanche prima, voglio dire, se non le cose normali di richiesta autorizzativa e dei cerimoniali per quanto riguarda il fatto di compiere questa manifestazione in piazza. Devo dire che il sindaco ha la solita provocazione del COISP, che il giorno dopo la sua elezione gli ha chiesto di rimuovere il CIP, ha detto che non rientra nelle priorità dell'amministrazione, e mi pare quantomeno una risposta elegante. Alla cosa che dicevi prima aggiungerei questa riflessione: la Liguria è una regione che, salvo un piccolissimo periodo, ha governato la regione e i comuni di Genova, Savona e Spezia, mentre Imperia è stato per lungo tempo il regno di Scaiola, naturalmente a sua insaputa. Ecco, la novità è che oggi la regione è alla destra, Genova, Savona e Spezia sono alla destra e Imperia è al centro-sinistra. Non so se è una lezione per Scaiola o per questa sinistra un po' strampalata che non riesce più a fare quello che dovrebbe fare. L'iniziativa a Genova cominciano prima del 20 luglio e continua dopo il 20 luglio. Domani una cosa molto importante al Palazzo Ducale, un convegno intitolato Io Madre Accuso, e ci saranno le mamme della Terra dei Fuochi, le mamme della Valsusa, le mamme di Roma, le mamme di Spagna, di Barcellona e di Madrid, che verranno appunto a raccontare i loro dolori e a chiedere verità per tutti i danni che sono stati compiuti.